Sottotiro. Sottotiro. Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. La nostra mail sottotiro @radio24.it. Vi chiedo di mandare segnalazioni su tutto quello che è resistenza alle mafie, iniziative, storie, volti, protagonisti, associazioni, tutto ciò che è resistenza alle mafie, vecchie e nuove, nel nostro paese che dal sud al nord è oramai penetrato completamente. Forse sempre poco ce ne rendiamo conto. La seconda informazione di servizio riguarda il mio blog, che ormai conoscete, Guardie o Ladri. Sapete che ormai da 4 anni parlo solo di mafia ed economia criminale in questo blog. Allora, alcune settimane fa, parlando con Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, ucciso il 1 maggio 1978 dalla mafia in Sicilia, dicemmo con lui, colloquiamo sul fatto che questa trasmissione indegnamente vuole essere comunque un anello che a 32 anni di distanza si lega a Radio Out, la radio di Peppino Impastato. E state un po' a sentire. Stamattina Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio e non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c'è più, è morto, si è suicidato. No, non sorprendetevi, perché le cose sono andate veramente così. Lo dicono i carabinieri, il magistrato lo dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita, ecco, questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui, per abbandonare la politica e la vita, che cosa fa? Se ne va alla ferrovia, comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno. Poi si fascia il corpo con il tritolo e salta in aria sui binari. Suicidio. Allora, questo è un frame che abbiamo preso dal film I 100 passi, regia di Marco Tullio Giordana. Siamo nel 2000. Benvenuto a Faro Di Maggio. Buongiorno Di Maggio. Buongiorno, ciao a tutti. Lei ha riconosciuto questo passo che noi abbiamo mandato in onda? Certamente, questo è un intervento che ha fatto il compagno Salvo Vitale subito appena trovato morto Peppino Impastato. Dalla radio, con enfasi, ha fatto questa discussione che voi avete sentito nel film, ed è molto veritiera, racconta proprio come è successo. Come andarono le cose? Allora, per chi non lo sapesse, Faro Di Maggio, Salvo Vitale che ha citato Faro Di Maggio, erano amici di Peppino Impastato e collaboratori a Radio Out. Ecco, le chiedo, Faro Di Maggio, vogliamo conoscere un qualcosa di lei. Oggi lei nella vita cosa fa dopo quell'esperienza? Io ero allora già un dipendente, appena giovanotto, dipendente della SIP, adesso continuo a essere un tecnico della Telecom Italia, nella provincia di Palermo, Terrasini. Ho capito. Ecco, allora, lei quindi collaborava con Radio Out, ma aveva un proprio lavoro. Le chiedo, ma di quell'esperienza a lei personalmente che cosa è rimasto oggi? Di quell'esperienza, diciamo, è stata la mia vita, diciamo. Ero giovane, quando è saltato in aria Peppino Impastato avevo 25 anni. Senta Di Maggio, le chiedo questo. Allora, all'epoca il vostro impegno antimafia era forte e fortissimo. Ricordiamo che Radio Out era qualcosa di straordinariamente devastante, dirompente in un territorio, la provincia di Palermo, dove i boss, forse più o meno come oggi, la facevano da padrona. Allora, ma oggi lei come prosegue quell'impegno antimafia? Cioè, ha detto, vabbè, sono stato sconfitto perché con la morte di Peppino Impastato abbiamo perso tutti, siamo morti tutti idealmente, oppure lei oggi continua comunque a distanza di 32 anni, dopo, voglio dire, dismesso il suo lavoro quotidiano, a rendere testimonianze, a fare lezioni di legalità, a promuovere la legalità nella sua terra. Ci racconti che cosa fa oggi? Ha dei figli? Li educa la legalità? Qual è l'eredità di Radio Out oggi per lei? Per me Radio Out, diciamo, quel momento, e Radio Out è quella che esce più con più evidenza, diciamo, più forte, perché ha l'impatto mediatico di portare fuori, attraverso uno strumento che è la radio, in un modo nuovo, che è questo negli anni 70 è spuntato, lo sta a testimoniare, in quel periodo sono nate circa 3.500 radiolibere in tutta Italia. Certo. Di tutte queste, diciamo, possiamo dire che molte erano, diciamo, consumistiche, nel senso facevano ascoltare musica e cose, ma alcune di queste erano molto politiche, nel senso avevano un impatto politico sul sociale, raccontando e facendo informazione su quello che succedeva nei vari paesi. Certamente. Ma oggi Faro, lei che cosa, voglio dire, continua di quell'esperienza? Oggi va nelle scuole, ha iniziative culturali che diffondono, come dire, dei messaggi e delle iniziative antimafia, denuncia la mafia. Che cosa fa oggi lei sul territorio? Certamente la situazione è molto diversa di allora, perché dopo Radio Auto c'è stato un seguito, dopo la morte di Peppino Impastato, non è finito là. Se Peppino Impastato poi è stata data giustizia sia politicamente che a livello delle istituzioni, che a livello è stato condannato il Gaetano Badalamenti all'ergastolo, è perché c'è stato un gruppo politico che ha lavorato, la famiglia Impastato, certo, i compagni di Peppino, certo, Impastato, certo, certo. Il centro Impastato di Palermo con Umberto Santino, uno storico molto importante, di rilevanza internazionale, per cui tutto questo percorso non è che è spuntato così dall'oggi al domani. Noi siamo andando avanti a testimoniare contro Gaetano Badalamenti, con lui davanti sullo schermo in carcere, additandolo. Cioè, non è una cosa, per cui c'è stato un percorso dopo, oggi certo man mano, oggi magari ci riduciamo a creare questi forum durante il 9 maggio, che è la memoria di Peppino, per non dimenticare, per continuare nella legalità. Noi spesso ci ritroviamo nelle scuole, tutti i compagni, la famiglia, a testimonianze, a portare avanti il problema della legalità, che non è tanto fare gli eroi, perché noi allora non eravamo eroi, ma eravamo dei ragazzi presi dall'antimafiosità, dalla voglia di riaffermare la legalità, i valori e i principi contro i disvalori della morte, della distruzione, della violenza, che sono propri di Cosa Nostra e, ahimè, di tutte le mafie. Allora, io ringrazio ovviamente Faro Di Maggio per la sua testimonianza, auguro a lui e a tutti noi buon lavoro, grazie in redazione a Laura Fagin e in studio a Roberto Scaltritti, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani.